sai che vai, rabbia e povertà che trovi, paesaggi che incontri, gas, veleno, terra e fuochi, e ti ritrovi qui a giocare solo coi tuoi dadi in mano, oppure a sniffare devastato sul divano. Siamo tutti soli in questo mondo, come lampi ciechi di un secondo, ed anche se sinceri o falsi non vinciamo mai. Paese che fuggi, sangue e crudeltà che ignori, paure che tocchi tanto per restarne fuori, giro tondo senza mani, un orologio a meccanismo inverso. Siamo echi lontani dopo un viaggio nel silenzio, fiduciosi nel guardarci intorno, abbronzati e crudi in questo forno. E anche se lieti un giorno bui non bruceremo mai, finché la forza e la speranza bruceranno in noi. Dietro noi non c'è nessuno, dopo noi nessun futuro. Siamo stracci appesi a un muro, poi blu di un calendario, ammassati al bastimento, noi soldati di un momento. Sbarco, tutti nello stesso varco, paese che cerchi, pace e libertà che implori, verso tre fondali ho incagliato nei tuoi sogni, figli di un dio, di uno sciamano, frutto di oscuro disegno, di un perduto amore o una notte senza impegno. Siamo pioggia fitta sul velluto, più del mare meno di uno sputo, e tutti schiavi o bucanieri non salpiamo mai.